E si apre oggi a Lingotto di Torino il 12° congresso della CISL Piemonte con oltre 300 delegati. Michele Ruggero ha intervistato il segretario urgente Alessio Ferraris. Innanzitutto una verifica del gruppo dirigente uscente su ciò che abbiamo fatto di bene e di male in questi anni difficili. Sicuramente il congresso servirà anche a sancire una linea, speriamo unitaria, sul tema del fisco, tema centrale. Aspettativi e propositi di Alessio Ferraris, segretario generale della CISL Piemonte, il cui congresso è il 12°, si apre stamane a Lingotto di Torino con la partecipazione di 329 delegati. Dopo 4 anni al vertice, Alessio Ferraris chiederà la riconferma del suo mandato con una parola d'ordine: diamo voce alle persone e futuro al lavoro. Ma ascoltiamo che cosa c'è nella sua agenda. Proseguire nei limiti del possibile il confronto unitario, che è stato positivo, segnatamente sul patto per Torino e Piemonte, 6 miliardi governativi e comunitari che ci occorrono per completare il sistema infrastrutturale. La crisi, aggiunge Ferrari, si impone più che mai l'uso della leva finanziaria e la Finpiemonte, braccio operativo della regione, può diventare lo strumento ideale per rilanciare il settore manifatturiero che ha perduto oltre 60.000 posti in Piemonte. Ultimo tasto per Ferrari su un orgoglio sindacale da ritrovare, che per la CISL Piemonte significa la rappresentanza di 261.000 iscritti. Certo, ancor più di ideologico la consapevolezza di quanta possa essere la forza del mondo del lavoro, un mondo del lavoro che ha vissuto 10 anni di crisi e che si è indebolito in questi 10 anni di crisi, ma la nostra forza è l'associazione. E se guardo quel dato, solo quest'anno, anno non facile, abbiamo fatto 50.000 nuovi iscritti negli attivi. I lavori saranno chiusi domani dal numero uno nazionale Anna Maria Furlan. Michele Ruggero, TGR Piemonte.